A l'ura va sonce margriata da bot, e da tutte la pren pietigot. Pietigotti mio bien signor, e pietigotti mia buona caldera, pietigot mia buona panaia, pietigot mia buona fuenetta, che io dormeva la dinna puntai, perciai fasquai mio bien pasto, pietigot mius buonas vacchettus, fus vinisa si giardi lans. Sapiti eu scurieu che eu tu. E prima bella sur concluso, la caldera le svacche smaven sventur, a sci lungo e le zambiu, a nelle sbuca calau de bergi. E pia è Zelaida sperina fontana o a canton. O ti fontanetta, se io monir na ben, se venius luci giarsi, e la fontana esci già da sì. Zelaida sperina planca o a canton. O ti planchetta, se io monir na ben, se venius ti questa seca, e la planca è secada. E mai verde gada. E curca la ida, sutil zenda son giri e son gal, tu cavanai den semen, cae de voi il battal.